Radio 24 Reportage. Kona, paradigma della cattiva accoglienza dei migranti, di Valentina Furlanetto. Conetta, frazione di Kona, provincia di Venezia. Un luogo sperduto, lontano da tutti, nella profonda provincia veneta. È qui che il 3 gennaio, un mese fa, una donna partita dalla Costa d'Avorio, giovane e sana, ha trovato la morte. Si chiamava Sandrine Bakayoko, aveva 25 anni ed era in attesa di documenti, ospitata nel centro migranti di Kona. Urla, spintoni e anche qualche bastonata. Nel centro di prima accoglienza di Conetta, frazione di Kona, nel veneziano, la protesta va avanti nonostante ci sia chi all'interno della comunità dissenta con il blocco operato da una cinquantina di migranti ivoriani che impedisce la consegna dei pasti agli ospiti dell'ex base militare, circa 1400 africani complessivamente. Il freddo e il sovraffollamento i motivi della contestazione, ma la rivolta è iniziata lunedì pomeriggio per i presunti ritardi nei soccorsi di una 25enne. La morte della ragazza è avvenuta per cause naturali, ma è stato il pretesto per la terza rivolta dei migranti che al centro vivono fra degrado, frustrazione, sporco e miseria. Certificati dalla commissione d'inchiesta presieduta da Federico Galli, che il 20 di gennaio ha detto che la struttura inadatta è una bomba sociale. È passato un mese da quella morte e dalla rivolta, eppure qui poco è cambiato. Dopo il trasferimento dei 100 facinorosi in Emilia-Romagna, il centro di Kona ospita ancora 1300 persone in una frazione di 190 abitanti. Arrabbiati pure loro, perché hanno visto la loro comunità stravolta. Si sono ritrovati in casa improvvisamente 1300 sconosciuti. Giovani vanno via, non abbiamo bar, non abbiamo negozi, non abbiamo niente. Questa è la realtà di questo paese qua. Che ci importa di Sandrine Bakayoko? Che ci importa di Kona? Ce ne occupiamo non solo e non tanto per andare a vedere cosa è accaduto, ma anche perché Kona è un paradigma della cattiva accoglienza, come il centro richiedenti asilo di Mineo vicino a Catania, o il centro di Foggia, una baraccopoli dove un migliaio di migranti vivono fra rifiuti e baracche. E ancora, il centro di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, dove sono accampate 2000 persone. Il Nord non fa eccezione. Ecco cos'è il centro migranti di Kona, nelle parole del sindaco Alberto Panfilo. Un centro dove che sono stati purtroppo ammassati in tendoni di plastica più di 1300 persone. In una località sperduta, in mezzo ai campi, in capannone di plastica, ammassati, hanno trasferito Lampedusa, l'hanno trasferita poi in altre località di frontiera. Cosa ha fatto il prefetto? Ha trovato una base militare ancora del demanio, ha fatto una convenzione e ne è proprietaria e la sta usando per fare un magazzino, un vero e proprio magazzino di vite umane. Hanno umiliato la mia popolazione. La nostra reazione non è mai andata contro i migranti. La nostra azione e reazione è verso chi ha provocato questa situazione. Addirittura i migranti stessi, con le loro proteste, scrivono le stesse cose che scriviamo noi. Cioè, oggi le vittime di tutto questo chi sono? Una piccola frazione di pochi abitanti a cui abbiamo completamente stravolto la vita e dei migranti a cui in qualche modo l'accoglienza italiana vorrebbe far credere che noi vogliamo fare qualcosa per loro e in realtà stiamo offrendo questo. Su Kona nessuno ha parlato, non parlava nessuno, nemmeno la Lega è mai venuto da noi, figuriamoci poi i partiti del governo. Insomma, una situazione che era già esplosiva e sulla quale, come dice lei, non c'era acceso nessun faro di interesse da parte di nessuno, neanche della politica. Lei di che parte politica, a che parte politica appartiene? No, alla politica dei neuroni e dunque difficilmente trovabile nel panorama politico italiano. La politica anche in questi giorni sta gestendo un problema complesso con una debolezza di pensiero, di conoscenza che lascia stupefatti. È non conoscenza della materia il grande problema di questa politica. Ma perché in questo paese deve essere un sindaco di 2.900 abitanti che suggerisce soluzioni che la grande politica non sa? Ricordo a questi signori che sono arrivati con 17 mesi di ritardo nel nostro territorio. Forse se arrivava prima l'attenzione e non ci fosse stato questo centro, Sandrin forse sarebbe ancora qui, perché magari preventivamente poteva essere fatto qualcosa. Chi gestisce il centro di Cona è la cooperativa Edeco, ex Ecofficina. I vertici della cooperativa, Gaetano Battocchio, Sara Felpati, Sergio Enzini, sono al centro di due indagini parallele condotte dalla Procura di Padova e da quella di Rovigo, la prima per presunti documenti falsi presentati nel corso di una gara e l'altra per maltrattamenti nei confronti dei migranti. Di come andavano le cose al centro ci si può fare un'idea anche ascoltando la presidente della COP, la moglie di Borile, Sara Felpati, che in un video diffuso dal Gazzettino a luglio chiama i profughi macachi. Macachi tutti. Ok, quindi io no, aspetta. Okay. Chi è il proprietario? Adesso ve le spiego, perché non potete essere così. Macachi. Un nome che torna ossessivamente nelle inchieste che coinvolgono Edeco è quello di Simone Borile, marito di Sara Felpati, che per Edeco cura i rapporti con la prefettura. Borile, da ex direttore di Padova 3 SRL, si occupava fino a 3 anni fa di gestione dei rifiuti, poi ha lasciato. Evidentemente rendono di più i migranti. A Padova 3 SRL ha lasciato intanto un buco di 30 milioni di euro su cui indaga la Procura di Padova. Il governatore del Veneto della Lega Nord, Luca Zaia. Noi nell'immaginario collettivo associamo la parola cooperativa a volontariato, a qualcosa di mutualistico. Mi sembra che qui è un business bello e buono. A furia di vincere appalti per la gestione dei profughi in Veneto, Edeco è passata dal fatturato di 114.000 euro nel 2011 a fatturare oltre 10 milioni di euro l'anno. È riuscita infatti ad aggiudicarsi la gestione di altre strutture dedicate all'accoglienza, come quello dell'ex base militare di Bagnoli di Sopra in provincia di Padova e quella di Oderzo in provincia di Treviso. Le inchieste non hanno impedito infatti al prefetto di affidarsi a questa cooperativa per gli appalti. Tuttavia, che qualcosa non andasse, si era accorta anche Confcooperative, che nel settembre 2016 ha sospeso Edeco. Giuseppe Guerini, presidente nazionale di Federsolidarietà di Confcooperative. Questa è una cooperativa che ha ritenuto che fosse prioritario il perseguire un obiettivo di fatturato e quindi di grandi volumi. Le prefetture, quando si trovano a gestire un'emergenza, perché gli arriva da oggi a domani un autobus con 100 persone da collocare nel giro di poche ore, cominciano a chiamare le strutture che hanno già e li mandano. Poi di fatto l'importante è rispondere all'emergenza, no? Ci piacerebbe che, ad esempio, e alcune prefetture lo stanno facendo, la lista che noi stiamo costituendo delle cooperative che sottoscrivono il protocollo della buona accoglienza. Ma la prefettura poi appunto ha continuato a scegliere questa cooperativa anche dopo l'indagine, questo vi ha stupito? Purtroppo questa è una constatazione che ci capita di fare in molti casi, nel senso che anche realtà coinvolte in situazioni piuttosto pesanti. Vogliamo parlare della 29 giugno e poi alla fine... La 29 giugno è quella cooperativa di Buzzi che è stata coinvolta in Mafia Capitale. Esatto. Però noi la vediamo vincere negli appalti, abbiamo visto recentemente vincere appalti realtà che erano collegate sostanzialmente al sistema di Cara di Mineo piuttosto che del sistema Buzzi, recentemente hanno vinto l'assegnazione. Senta, noi Presidente, quali sono le altre situazioni critiche attualmente? Foggia non è cambiato molto, a Mineo non è cambiato molto, quindi quelli che sono i grandi centri che prevedono una forte concentrazione di persone sono ancora lì. Voi avete sospeso Ecofficina. Ci sono altre cooperative che si occupano di accoglienza migranti che avete sospeso? Sì, abbiamo sospeso una cooperativa in Basilicata, e che operava nel CAR di Foggia. E continua ad operare? Non è più nostra associata, continua a operare nel CAR di Foggia, certo, perché di fatto no, così come Ecofficina continua ad operare. Ecofficina prima si occupava di rifiuti e poi si è occupata di migranti. In questo caso sono i soldi il comune denominatore? Evidente. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.